la loro riottosità a scegliere un piano di cultura politica antifascista, ma segnano una svolta. E cioè i ribelli di Fini che hanno rifiutato la svolta di Fiuggi alla fine devono anche loro riconoscere l'antifascismo, seppure con tanta fatica, con tanta reticenza. Mi sembra che la prima considerazione che si può fare è che man mano che la destra va al governo deve fare i conti con l'antifascismo e l'antifascismo vince. Nel 1994 Fini va al governo, scioglie il vecchio movimento sociale, fonda Alleanza Nazionale e rilancia dei termini abbastanza demenziali, ma che in quel momento avevano un significato politico, come fascismo mario assoluto. Poi Berlusconi era sempre stato molto ostile alla resistenza, considerava la Costituzione italiana sovietica, però poi nel 2009, certo 15 anni dopo aver cominciato a fare politica, ma nel 2009 fece quel famoso discorso a Onna in cui proclamò l'antifascismo come la base della Costituzione democratica. E ora Fratelli d'Italia, con molta fatica, però, ha dovuto riconoscere l'antifascismo. Lo ha detto Meloni nella sua lettera, lo ha detto obtorto collo La Russa, ma insomma lì si va a parare. La considerazione, semmai, è quali sono le ipoteche che Fratelli d'Italia mette sul proprio accettare l'antifascismo, e questo lo si vede nella seconda parte della lettera di ieri di Meloni al Corriere della Sera, lo si vede da posizioni intellettualmente più avvertite di questa classe dirigente di estrema destra che è francamente molto debole e molto povera culturalmente. La seconda parte della lettera di Meloni, così come altre affermazioni che emergono da quel mondo, in particolare da una certa intellettualità post-fascista, sono: sì, va bene, il fascismo è un totalitarismo, quindi da respingere, ma bisogna respingere anche il comunismo. Il riferimento alla risoluzione del 19 settembre 2019 del Parlamento europeo, che fu una scivolata tremenda e che equiparava nazismo e comunismo, e sta lì a testimoniarlo, continuamente citata dalla destra. E cioè, va bene, l'Italia è risorta grazie alla fine del fascismo, si fa fatica a dire antifascismo ma alla fine lo si dice, però il vero problema erano i comunisti. E infatti Meloni propone di celebrare il 18 aprile 1948 come il giorno della libertà, perché in quell'occasione il fronte delle sinistre fu sconfitto dalla Democrazia Cristiana alle prime elezioni politiche dopo il fascismo. Questo direi è il quadro concettuale nel quale ci muoviamo. Non è una novità, il conflitto tra moderatismo italiano, che accusava la resistenza di aver avuto una troppo forte componente comunista, e invece un'idea di antifascismo unitario, c'è sempre stata. C'è stata nella parte di destra della Democrazia Cristiana degli anni 50, è riemerso con il craxismo e in particolare con la famosa intervista alla fine degli anni 80 di Renzo De Felice, massimo studioso di Mussolini, che abbandona gli studi storici per passare alla politica, rilasciando un'intervista al Corriere della Sera nella quale si diceva: si può essere democratici e non antifascisti, si può essere antifascisti e non democratici, sostenendo quindi che i comunisti si erano stati antifascisti ma non erano democratici. Ecco, oggi ritorniamo a questo piano di confronto. I post-fascisti dicono: va bene, passi l'antifascismo ma tutto il resto no, spostano tutto sul piano dell'anticomunismo. Mi sembra che questa sia la cifra attuale. Posto che il comunismo in Italia, insomma, non c'è più nemmeno, come dire, quasi nei partiti. Ma la domanda che ti volevo fare ora riguarda il tema della riconciliazione. Come dovrebbe essere una riconciliazione, come dire, sincera nel nostro paese? La riconciliazione c'è già stata, è stata nella Costituzione, che nelle norme transitorie finali dice che gli ex dirigenti del partito fascista sono esclusi dalle cariche pubbliche soltanto per 5 anni, perché si suppone che dopo la democrazia vinca e che anche loro diventino democratici, accettino di partecipare al gioco democratico. E poi la riconciliazione c'è stata con l'amnistia del 22 giugno 1946, cioè 20 giorni dopo dopo il referendum istituzionale che ha scelto la Repubblica, amnistia detta amnistia Togliatti, perché è stata presentata dal ministro di Grazia e Giustizia, che allora era Togliatti, segretario del Partito Comunista, ma approvata da tutto il governo, della quale si amnistiavano i fascisti, consentendo loro di entrare nella vita del paese, con l'esclusione dei criminali più grossi, e cioè i massimi dirigenti dello Stato illegittimo neofascista, la Repubblica Sociale Italiana, nota come Repubblica di Salò, e i comandanti militari delle formazioni fasciste. Ma esclusi questi, tutti gli altri venivano considerati come persone che si erano fatte entusiasmare da una dottrina politica sbagliata o erano state irretite da una propaganda ingannevole. Quindi la conciliazione c'è già stata. L'unica conciliazione che manca è che i post-fascisti accettino completamente il gioco della Costituzione. Ma non c'è nessun'altra riconciliazione. Non è possibile riconciliare fascismo e antifascismo, perché il fascismo è un crimine. Sarebbe come dire che Totò Riina dovrebbe riconciliarsi con Falcone, o che Matteotti dovesse riconciliarsi con Mussolini, o che il mostro di Firenze dovesse riconciliarsi con le coppie che ha ucciso. È impensabile. La riconciliazione, la grande riconciliazione politica, c'è già stata. La riconciliazione tra fascismo e antifascismo è inconcepibile.